Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia del poeta Luca Giambonino, dal titolo Dubbi e incertezze. Una paura fugace, o forse una forma d'ansia, quella che mi assale quando penso all'esame finale. Alle volte già mi vedo vincitore con il merito e l'onore, e a volte invece no. A volte, caro lettore mio, prevale l'incertezza, il dubbio e nel profondo un'orribile sensazione di sconforto. Ah, fosse già passato quel giorno, fosse già tutto alle mie spalle. Ma fin quando avrò vita, temo, ci sarà ansia per me, povero poeta lastricato di cristallo.